Sì, sì, sì. Allora, boh. Ma Teresa già ci sta dentro. Cioè, quelli, capito, non mi chiamano, ma Teresa già ci sta dentro la. La come si chiama? E ci sto scrivendo che sta già in conversazione.